Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Come già anticipava il nostro GR24, siamo in diretta dalla seconda giornata di lavori, come si dice in gergo, di apertura di Tutto Food, che appunto si è aperto ieri. Oggi è venuto in visita anche Barack Obama, molto annunciata la sua visita, l'intervento, la platea che aveva pagato 850 euro per ascoltare l'ex presidente statunitense. In realtà noi qui ci occupiamo, e devo dire che Obama ha avuto parole di encomio anche per il Made in Italy italiano, e si è discusso, venendo ai temi di questo programma, anche dei possibili danni che potrebbero arrivare sui prodotti di alta gamma italiani da un eventuale giro di vite protezionistico da parte degli Stati Uniti. Il Centro Studi di Confindustria, nel presentare questi dati in un rapporto Esportare la dolce vita, di cui ci occuperemo perché era in parallelo a Tutto Food, il convegno di questa mattina, dove è intervenuto anche il ministro Calenda, stima che un aumento delle tariffe doganali, cioè se si tornasse al periodo precedente le liberalizzazioni degli anni 90, questo significherebbe un danno per il nostro export verso gli Stati Uniti di 1,2 miliardi verso i paesi avanzati, in realtà, e un miliardo sarebbe di 1,4 miliardi inferiore come rispetto al nostro export rispetto agli Stati Uniti, visto che si va verso una previsione di 12 miliardi di euro. Di questo parleremo anche appunto della scelta annunciata ieri dal ministro Martina di inviare a Bruxelles la richiesta italiana di obbligare i produttori di pasta e riso in Italia all'obbligo di indicazione delle materie prime per appunto il riso e del grano per la pasta. Molto scettici i produttori di pasta, festeggia invece la Coldiretti. Questo smaschera gli inganni, si riferisce soprattutto al boom di importazioni di riso, più 346% dal Vietnam, dopo che l'Unione Europea ha eliminato di fatto i dazi sul riso asiatico. Ne parleremo in apertura, proprio perché siamo qui al padiglione 2, lo dico per chi ce lo scrive, ce lo chiede, nell'area T della fiera Ropero. Invece continueremo anche sul fronte internazionale, non tanto oggi all'Italia, domani è prevista una conferenza stampa alle 12 dei nuovi vertici di Alitalia, quindi attendiamo domani, fermo restando che le preoccupazioni anche degli operatori del settore turismo sono molto alte, ma ripeto, aspettiamo domani, così avremo qualche elemento in più, dopo che interverranno tra gli altri anche il neocommissario Gubitosi. Per quello che riguarda invece gli altri temi di approfondimento, oltre alla borsa che guadagna lo 0,60%, con Parigi che guadagna lo 0,30%, Francoforte lo 0,50%, Londra pure mezzo punto percentuale, Dow Jones invariato, euro su dollaro 1,08, bene, molto bene, Campari più 5,42% in trimestrale oggi, i dati trimestrali, anche Banca Generali più 4,14%, Ferrari più 3,80%, Hughes Santa Portè più 2,60%, Recordati più 1,90%, Azimut più 1,5%, come Luxottica, Brembo e Italgas. Chi va male oggi? Soprattutto Banco BPM meno 4,40%, poi Biperbanca meno 1,20%, UbiBanca meno 1,1%, Mediolanum meno 0,70%. Come sempre 349-238-6666 è il numero per SMS e WhatsApp. Dicevo, l'altro grosso tema di oggi riguarderà l'Europa, dell'affermazione di Macron. Intanto il nostro uccellaccio dovrà chiedere scusa per le previsioni sbagliate, aveva previsto infatti Giulio Sapelli la vittoria di Marine Le Pen, ma soprattutto ci sono già i primi movimenti. Oggi Valls ha chiesto di poter entrare nel partito di Macron a Marche, gli hanno detto beh, adesso vediamo, c'è un po' di mal di pancia per la prima uscita di Macron proprio pubblica, che avverrà in Germania a Berlino. Macron ha preso posizione chiedendo a Trump di rispettare gli accordi sul clima per quello che riguarda gli accordi di Parigi, ma in realtà quello che a noi interessa, lo dico in maniera un po' cinica, e capire come si muoverà adesso la Commissione europea e se quella specie di accordo tra Spagna, Italia, Francia e Portogallo, con la lettera inviata a Bruxelles per chiedere un nuovo modo di contare e conteggiare i deficit e gli impegni sui deficit, se quella pseudo, quell'embrione di asse resisterà oppure no. Dicevo 349-238-6666 per sms e whatsapp. Partiamo subito dalla notizia, in breve. E restiamo come sempre con le notizie di carattere internazionale, riguardano l'Italia in questo caso. Secondo il Financial Times, oggi il Financial Times torna a occuparsi del nostro paese e dice: il sistema finanziario italiano resta uno degli anelli deboli non risolti in un'economia europea che finalmente mostra segnali di ripresa. Si riferisce soprattutto ai crediti deteriorati in pancia alle banche italiane, non performing loans. Lo stock si sta riducendo, ma allo stesso tempo la qualità del portafoglio si sta deteriorando. Questo vuol dire che, insomma, sei riuscito a recuperare quelli più recuperabili, ti restano quelli, insomma, le zavorre più pesanti. Oggi invece il commissario europeo Pierre Moscovici, in un incontro con la stampa a Parigi, a chi gli ha chiesto se fosse preoccupato per l'ipotesi di una vittoria degli euroscettici del 5 Stelle in Italia, ha detto Moscovici: l'Italia è un grande paese, la terza economia dell'area euro, è un paese indispensabile alla zona euro, è un paese che ha conosciuto una crescita non troppo debole e che prosegue le riforme. Conto fondamentalmente sull'impegno pro-europeo dell'Italia oggi, domani e dopo le elezioni. Oddio, troppa grazia Moscovici, vedremo, perché le elezioni si fanno anche perché i diversi partiti hanno diverse opinioni sulla partecipazione all'Europa, più che legittime. Chi vi parla sapete benissimo come la pensa, però che non vuol dire che uno possa dire tanto l'impegno italiano resterà, conto che resti anche dopo le elezioni. Le elezioni si fanno anche per capire come deve essere l'impegno italiano e sentire l'elettorato che tipo di idea ha di Europa e di partecipazione dell'Italia in Europa. Restando in Italia, segnalo che le vendite del primo trimestre, e quindi parliamo dei consumi, sono salite lo 0,7% rispetto all'anno prima, vendita a dettaglio, però i volumi sono stazionari, è salito solo il numero delle vendite in valore ed sono stazionari anche rispetto a marzo. Per quello che riguarda il trimestre, l'Istat fa notare che lo 0,7% è l'incremento migliore da fine 2010, quindi da oltre 6 anni. Faccio notare però che appunto mese su mese c'è ancora una sostanziale allineamento con i dati, per cui è vero che il trimestre è uno 0,7, però da qui a festeggiare ce ne vuole. Ma soprattutto faccio notare che su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24 sulle 24 ore, trasmessi come sempre anche su RDS, oggi a firma del vice direttore Salvatore Padula. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Salvatore Padula. Molti economisti ritengono che tra le cause della prolungata fase di stagnazione dell'economia del nostro paese, che cresce poco e quando lo fa a malapena arriva all'1%, ci siano anche le difficoltà a rilanciare gli acquisti delle famiglie. A confermare la debolezza dei consumi arrivano oggi i dati diffusi dall'Istat. Nel mese di marzo le vendite al dettaglio sono scese dello 0,4% in valore e dell'1,4% in volume rispetto all'anno precedente. È vero che i due periodi non sono perfettamente confrontabili, perché a marzo 2016 includeva le vendite di Pasqua, che quest'anno invece andranno a pesare sul mese di aprile. Anche tra febbraio e marzo di quest'anno le vendite restano però stabili, un'altra conferma di questo scenario improntato a una persistente debolezza. Qualche piccolo segnale, ma forse più legato alla dinamica dei prezzi che non alla dinamica dei consumi, arriva guardando i primi tre mesi dell'anno. Le vendite al dettaglio sono cresciute dello 0,7% rispetto al primo trimestre del 2016, ma va detto che i volumi sono anche qui rimasti stabili. Bene, allora, quali indicazioni trarre? Beh, di sicuro il 2017 non sarà, come alcuni prevedevano, l'anno della ripresa dei consumi e sarà un tema che il governo non potrà non affrontare in autunno, quando dovrà mettere a punto la manovra per il prossimo anno. Si discute di taglio del cuneo fiscale, un po' meno si parla ormai del taglio dell'IRPEF, ma insomma è evidente che qualche cosa si dovrà fare. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Beh, alla luce del commento di Salvatore Padula verrebbe facile, viene facile la battuta: gli unici consumi che crescono qui sono quelli di chi sta fuori dall'Italia. Lo dico perché in realtà anche oggi commentiamo i dati sulle nostre esportazioni. Meno male che c'è chi continua a acquistare prodotti italiani all'estero, non solo in Europa, anche fuori dall'Europa. Secondo la stima, appunto, del rapporto che anticipavo prima, diffuso oggi nella presentazione del convegno Esportare la Dolce Vita, il potenziale del bello e ben fatto italiano nei mercati avanzati, dicevo, in collaborazione con Prometeia, lo studio individua in altri 18 miliardi l'incremento del nostro export come Made in Italy da qua al 2022. Lo ha rimarcato la vicepresidente di Confindustria con la delega all'internazionalizzazione, Licia Mattioli. Il potenziale nel mondo dei nostri prodotti è incredibile. E se noi pensiamo al potenziale per l'Italia, nei 31 mercati analizzati dal rapporto, si parla di quasi 12 miliardi di euro in più ad attendere nel 2022, a parità di quote di mercato, quindi un potenziale del tutto inespresso. E se però prendiamo lo scenario, questo è lo scenario, diciamo, più conservativo, ma lo scenario più ambizioso parla di oltre quasi 7 miliardi di potenziale, per arrivare quindi a un incremento complessivo che potrebbe essere di circa 18 miliardi. Quindi capite che sono numeri molto importanti e molto significativi. Ecco, noi, mi piacerebbe lavorassimo in questo senso, lo stiamo già facendo tanto, ma mi piacerebbe lo facessimo di più. Lavorassimo, perché essere imprenditori significa intraprendere. E intraprendere, se noi prendiamo l'enciclopedia Treccani, che cosa vuol dire? Incominciare a fare, dare inizio a un'operazione, mettersi in un'impresa. Si dice che per lo più di cose lunghe, di cose difficili, di cose impegnative o che abbiano una certa importanza. Ma lasciatemi aggiungere una cosa, e qui parlo di nuovo come imprenditore, significa anche fare il lavoro più bello del mondo, perché per un imprenditore fare il suo lavoro è veramente la cosa che lo porta tutti i giorni a sognare, a continuare a credere che questo paese può ancora dare tantissime cose a tutto il mondo. Così, appunto, dice Mattioli. Continuiamo, perché adesso arriveremo all'export dell'agroalimentare, visto che siamo qui a Tutto Food, però oggi si è parlato di export anche della moda. Insomma, le 4A restano le quattro gambe del tavolo del nostro Made in Italy, appunto: agroalimentare, legno, arredo, automotive, e da questo punto di vista, e abbigliamento. Però vorrei ancora far ascoltare un passaggio della Mattioli, al microfono la nostra Anna Marino, sulle leve da utilizzare per tutti questi settori e per tutti quelli che esportano, per migliorare, appunto, le performances dei prodotti italiani sui mercati internazionali. Bisogna continuare a fare quello che stiamo facendo, e cioè fare squadra col sistema paese, ministeri dello sviluppo economico, ministero degli affari esteri, ICE, SACE, SIMES e ovviamente Confindustria, e portarle a fare meglio quello che sanno fare. Dal punto di vista della digitalizzazione potrebbe essere anche questa una leva, si è già fatto molto con Industria 4.0, che cosa manca e come va valorizzato? Si è già fatto molto, ma noi siamo molto indietro, quindi c'è ancora molto da fare, questo come paese. Stiamo lavorando moltissimo perché le nostre aziende possano usufruire delle piattaforme digitali internazionali, e su questo stiamo lavorando e siamo con tanti progetti aperti. Ecco, l'Italia comunque deve essere più integrata come altri paesi, e soprattutto nei confronti di paesi che minacciano protezionismo come l'America. L'Italia deve essere sì più integrata, ma soprattutto più supportata dall'Europa, perché il problema qui non è più un problema di Italia, ma un problema di Europa, e l'Europa deve fare il suo ruolo, deve giocare il suo ruolo per non proteggere, ma far sì che il mondo sia veramente aperto a un prodotto bello e ben fatto come quello italiano. E veniamo ai settori, come dicevo. Alessandra Lanza, della società Prometeia, che ha realizzato la ricerca, individua, sempre al microfono la nostra Anna Marino, i vari fronti delle imprese italiane che già esportano, ma anche che possono avere margini notevoli da qua al 2022. Il nostro sistema paese ha delle enormi potenzialità da andare a conquistare sia sui mercati emergenti sia sui mercati avanzati. Quest'anno il rapporto si concentra per la prima volta sui mercati avanzati in un'ottica di alternare un anno avanzati e un anno emergenti. Il potenziale che abbiamo sui mercati avanzati per i prossimi 5 anni è di circa 70 miliardi di euro di export in più verso questi mercati. Questi 70 miliardi sono, come dire, l'ipotesi più conservativa, perché sono calcolati a quote costanti, quindi come se l'Italia continuasse a fare bene quello che ha fatto finora. In realtà il potenziale può essere molto più grande, perché potremmo immaginare di arrivare a conquistare le quote di uno dei 7 paesi nostri concorrenti, quelli più simili a noi. Non consideriamo la Cina come concorrente, ma prendiamo paesi che abbiano una struttura produttiva più simile alla nostra, quindi penso alla Germania, penso alla Francia, penso agli Stati Uniti, se noi riuscissimo a conquistare il primato in tutte le nostre specializzazioni del Made in Italy, che hanno una caratteristica di bello e ben fatto, potremmo crescere, anziché del 20% nei prossimi 5 anni, di oltre il 30%, quindi conquistando una fetta di mercato ancora più grande. Allora, vedo anche gli sms al 349-238-6666. Allora, è ovvio, l'abbiamo detto moltissime volte, che finché in questo paese non ripartiranno in maniera consistente i consumi interni, la domanda interna, noi di ripresa, in senso proprio, al di là di quello che dice la politica, non possiamo parlare. Che ci sia il segno più sul PIL è vero, è un segno più ancora del tutto insufficiente, e lo abbiamo detto mille volte. Dopodiché, in attesa che ripartano i consumi interni, secondo me senza una seria politica di investimenti pubblici che porti a ruota anche quelli privati, investimenti non costi, non avremo una vera ripresa della domanda interna. Ma detto questo, almeno aggrappiamoci tra virgolette sulla cosa che continua ad andare molto bene: il record dell'export l'anno scorso e anche dell'export agroalimentare è almeno da lavoro alle nostre imprese. Perché poi attenzione, è vero che dobbiamo ripartire i consumi interni. Quando ripartono i consumi interni non è che noi si vada a consumare 100% made in Italy, vai a consumare anche e aumenti anche le importazioni. Complessivamente migliora il clima economico, perché tutti lavorano meglio, gli operatori nazionali lavorano meglio con i clienti finali. Però non vai, un aumento dei consumi interni non vuol dire un pari aumento, è chiaro, del made in Italy, perché made in Italy spesso non è comprato dagli italiani in senso stretto. Comunque andiamo al protezionismo. Il 1.400.000.000 di danno stimato appunto dal rapporto di Confindustria, con un impatto netto migliore, perché non sarebbe 1.200.000.000, ipotizzando ritorsioni commerciali degli altri paesi contro gli Stati Uniti, cioè il 1.400.000.000 è il calo che avremo nei confronti degli Stati Uniti. Siccome poi tu probabilmente, se uno mette un dazio, ne metti uno anche tu, avresti un saldo un po' migliore, ma comunque negativo per noi. Soprattutto per l'alta gamma, 1.900.000.000. Comunque, Calenda dice: se a un certo punto, ministro Calenda, se io sono l'ultimo giapponese in Europa a difendere il TTIP, come ha scritto un editorialista italiano, ne sono molto fiero. Se cambia la linea statunitense, rimpiangeremo l'ipotesi avviata per gli accordi di libero scambio tra Europa e Stati Uniti. Sentiamo quali sono, secondo Calenda, invece i margini di crescita del Made in Italy anche nei mercati cosiddetti maturi. Noi abbiamo nella domanda internazionale, nella crescita della domanda internazionale, e aggiungo, non è un tema di oggi, nella crescita della domanda di turismo internazionale, due appuntamenti imperdibili per questo paese. Non è solo la retorica sul fatto che siamo un paese bellissimo, eccetera, eccetera. È invece il dato puntuale, se si guarda ai settori di specializzazione della nostra industria manifatturiera rispetto a quella che è la dinamica della crescita dei consumatori. Perché questo non riguarda solamente la Cina, riguarda moltissimo, per esempio, i paesi maturi. Noi 3 anni fa, quando abbiamo lanciato il piano Made in Italy, abbiamo detto che la priorità assoluta erano gli Stati Uniti. Perché le aziende italiane negli Stati Uniti non ci stanno ancora. Nonostante il fantastico surplus, poi darò due cose al mio amico Mike Froman, con cui ho lavorato al TTIP per 3 anni, credendoci moltissimo, ma nonostante il surplus sia positivo, noi stiamo appena intaccando la superficie. E per noi quella è una priorità assoluta, e in termini, è una priorità, è una sfida. Secondo me tutta la parte sui Competence Center e Digital Innovation Hub, su cui facciamo uscire questo mese il bando, che è tutta la componente di competenze, che è la parte più difficile da costruire. Ecco, da questo punto di vista, la digitalizzazione dell'Italia e di queste imprese, che cosa deve ancora fare? Perché... No, c'è ancora tantissime cose da fare. La digitalizzazione è un pezzo, c'è una componente che ha a che fare, oggi la vediamo, anche col cambiamento dei modelli gestionali per arrivare sui mercati internazionali. Io penso che innovazione e internazionalizzazione sono i driver di crescita, in particolare nel manifatturiero. I risultati sono, come al solito, positivi, ma riguardano una platea troppo piccola di imprese. Questo è il tema centrale. Un incentivo sarebbe utile? C'è già, ci sono. Industria 4.0 sono automatici, li stanno usando, funzionano. Direi di non andarli a cambiare per il momento. Così appunto il ministro Calenda. Noi già ieri ricordavamo lo sforzo fatto, devo dire anche qui, se una volta ogni tanto l'Italia si muove bene, e l'ICE nel caso specifico si è mossa bene, cosa abbiamo fatto? Abbiamo dato dei soldi come accordi, come Stato, per fare in modo che sostanzialmente i maggiori retailer, cioè i maggiori operatori della grande distribuzione americana, promuovessero i nostri prodotti. Accordi commerciali, sono 10 accordi con 7 retailer che hanno portato negli ultimi 2 anni a introdurre 368 nuovi fornitori italiani negli Stati Uniti e 1200 prodotti, soprattutto dell'agroalimentare, perché devo dire che questi settori, questi retailer, questi operatori della grande distribuzione lavorano nella grande distribuzione alimentare. L'ultimo annunciato ieri da Calenda riguardava Walmart, che vuol dire 3600 punti vendita negli Stati Uniti, il più grande retailer mondiale. Allora, quando tu spendi soldi pubblici, cioè anche miei e anche nostri, per promuovere Made in Italy in maniera intelligente, non per fare la visita di una volta con moglie, amanti e figli, la promozione del territorio che non serviva a nulla, ma per fare accordi commerciali in cui tu dici, come fa la Francia con i suoi canali, dici da sempre, insomma, noi facciamo un accordo e tu però spingi i nostri prodotti sullo scaffale. Beh, secondo me è una cosa giustissima, e ha ragione a mio avviso Calenda, tanto sapete che sono quasi sempre d'accordo con lui nel dire che stiamo comunque solo aggredendo la superficie. Lo dico e giro l'osservazione, anche perché sennò rischiamo troppo di festeggiare i dati ottimi, ma c'è ancora molto da fare. Giro l'osservazione al direttore dell'AIDEPI, che è l'associazione che rappresenta le industrie di questo paese che producono pasta, cereali, cioccolato, prodotti a base di cacao, gelati, confetterie, biscotti, pasticceria industriale, prodotti dolciari da forno, cioè l'80% del mercato nazionale. Mario Piccelluti, buonasera innanzitutto. Buonasera a lei e a tutti chi ci ascolta. Adesso arriviamo ai temi che riguardano anche voi e poi alla vostra polemica invece con il ministro Martina sull'indicazione della provenienza del grano nella pasta. Però, proprio perché Made in Italy non vuol dire solo agroalimentare, vorrei far ascoltare ancora due testimonianze prese dalla nostra Anna Marino. La prima è di Jean-Christophe Babin, che è il numero uno di Bulgari, Bulgari acquisita dai francesi, ma dove i francesi hanno investito, come spiega Babin. E invece Marco Bizzarri di Gucci, anche lui è acquisito dai francesi, e anche lì Bizzarri si concentra più sull'importanza del digitale, ma faccio notare che in tutti i due casi l'acquisizione straniera non ha voluto dire smantellamento, ha voluto dire investimento. Ci sentiamo come bulgari abbastanza alfieri di questo bello e ben fatto, in quanto il gioiello è proprio considerato come il lusso più assoluto, quello dove anche l'impatto dell'artigianato è maggiore. Noi lavoriamo proprio su delle risorse naturali che sono state create dalla pianeta per milioni d'anni, e tocca a noi questa grande responsabilità da gemme molto preziose di proprio lavorarle per glorificarle. Quindi è proprio l'essenza assoluta del lusso, e credo che come alfieri di questo artigianato italiano abbiamo dimostrato che l'Italia può, anche in questo ambito, il gioiello, essere proprio il paese più desiderabile. export e protezionismo non vanno d'accordo? Ma noi come Bulgari esportiamo quasi tutto, l'Italia è sempre ovviamente un mercato che conta per Bulgari, però data la demografia siamo solo 65 milioni, è chiaro che il grosso da ciò che fabbrichiamo, dal gioiello alla seta, alle borse, pelletteria, piuttosto che i profumi, vanno venduti all'estero, e quindi per noi è chiaro che tutto ciò che favorisce l'export è sacrosanto. Digitalizzazione, digital, e-commerce, web sono diventati fondamentali negli ultimi anni, particolarmente per comunicare con una serie di consumatori che sono emersi negli ultimi anni, i cosiddetti millennials, e come tali il modo di comunicazione è cambiato radicalmente rispetto al passato, soprattutto per le aziende del lusso. Una volta eravamo attenti alla singola parola che dicevamo, oggi tutto viene bruciato molto più in fretta, e come tale devi essere molto pronto a sfornare contenuti a grandissima velocità, evitando però che questi contenuti siano artificiali, fatti solo in termini di marketing. Quindi l'importanza della parte digital e social è chiave, andando avanti, sempre rimanendo fedeli però al proprio brand. Allora, Piccialuti, dal lusso, altissimo lusso, Bulgari, Gucci e quant'altro, andiamo invece al made in Italy più classico, quando parliamo di agroalimentare, pasta, dolciumi, di carattere industriale. Le chiedo ancora un minuto di pazienza, per capire poi quanto siete preoccupati dagli eventuali dazi, e invece che elementi di fiducia state realizzando anche qui sull'export, se poi ne avete anche sul mercato interno io sono contento, E poi vorrei capire che cosa non vi piace dell'iniziativa italiana su riso e pasta. 349 sulla denominazione, diciamo, della provenienza della materia prima per riso e pasta. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Vi presento. State ascoltando un programma offerto da Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Focus Economia. Di nuovo in diretta qui da Tutto Food. Qualcuno mi chiede: ma è meglio Cibus o Tutto Food? Per favore, andiamo entrambe, non mi fate fare, faccio come il Rigoletto, questo o quella, per me pari son. Va detto una cosa, da cui magari partiamo, che è innegabile che Milano, alcuni dicono, sta colonizzando. Però Milano, dopo l'esperienza dell'Expo, sta cavalcando anche il cibo, perché ha capito benissimo che dopo moda e legno arredo, quindi salone del mobile, la frontiera della, diciamo, dei settori più di tendenza, dove c'è un interesse pazzesco, lo trovavamo anche prima, non solo operatori, non solo buyers, ma anche gente comune che viene qui sì per assaggiare, ma anche per guardare, valutare, c'è tutta la componente tecnologica, per cui non so dire se sia meglio qui o Cibus, né mi interessa. Noto che però, vista anche l'esposizione mediatica a Milano, ci si è tuffata, diciamo, appieno nel settore del cibo, di quello che era non solo la moda, ma l'industria del cibo. Piccialuti, non voglio mettere in imbarazzo se è meglio Cibus o meglio Tutto Food, però possiamo dire che l'interesse della struttura fieristica milanese, della città nel suo complesso, Sala ieri ha detto che appunto vorrebbe che il cibo diventasse parte integrante anche durante la settimana della moda e nella settimana del salone, dimostra che qui gli affari ci sono, per dire, nel vostro settore c'è ciccia? Sì, decisamente sì, nel senso, anch'io non voglio entrare nella querela tra gli enti fieristici, però bisogna guardare effettivamente dei dati oggettivi. Le istituzioni locali, quindi non solo il Comune ma anche la Regione Lombardia, hanno da subito fiutato, diciamo, nel food, nell'alimentare, una grande opportunità sulla quale investire. Investire significa organizzare tutta una cornice, un contesto, un framework complessivo intorno al mercato, sì, alla fiera, dove effettivamente la città accoglie il cibo di tutte le parti del mondo, non è solo la promozione del cibo italiano, ma anche il cibo etnico di altre parti del mondo. Lo sostiene e lo fa incontrare i cittadini. Ecco, questa è la cornice ideale che è stata costruita, e quindi obiettivamente merito al sindaco Sala per aver intuito questa grande potenzialità. E la Regione Lombardia così, anche la Regione Lombardia. L'ho detto, anche alla Regione Lombardia così. Anche il presidente Maroni. Di Maroni. Allora, andiamo avanti invece con il resto. È appena uscita una notizia: nasce un'alleanza europea contro i sistemi di etichettatura a semaforo, creata da Coldiretti, Federalimentare e un primo gruppo di eurodeputati coordinati da Paolo De Castro, magari lo avremo ospite, Sapete che la Gran Bretagna, ma non solo, ha introdotto la famosa etichettatura a semaforo, che va a penalizzare moltissimo i nostri prodotti e non va a giudicare la qualità dei prodotti stessi. Qui la faccio breve, perché un conto è dire attenzione che il prodotto contiene grassi, ci mancherebbe, l'olio tende a contenere un po' di grassi. Altra cosa è non distinguere tra olio di colza e olio extravergine, magari di coltivi specifici. Comunque, questa alleanza mi interessava. Come va l'industria che lei rappresenta, pasta, prodotti da forno industriali, quindi cioccolato non solo, pasticceria, nei consumi interni e poi nell'export? Beh, è un'industria che fortunatamente va bene. È un'industria... Anche nei consumi interni? Allora, nei consumi interni, rispetto ad una media dell'alimentare che fatica, purtroppo è dal 2008, dalla fine del decennio precedente, che la crisi finanziaria, spostatasi nell'economia reale, ha creato una situazione di incertezza, di difficoltà. Ancora oggi, a nostro modo di vedere, i consumatori preferiscono tendere al risparmio piuttosto che investire in beni di larghissimo consumo. E quando effettivamente i consumi diminuiscono nei beni, appunto, di larghissima distribuzione, vuol dire che un problema effettivamente ci sta, cioè il consumo non si sente più confidente, non ha più voglia di spendere quello che ha sempre speso. Nel nostro settore, rispetto ad una media dell'alimentare, possiamo dire che il 2016 si è chiuso positivamente. Ecco, in un momento in cui alcuni settori vanno all'indietro o alcuni mantengono a fatica una stabilità di vendite, di produzione e di vendite, il fatto che i settori che rappresentiamo, come la pasta o gran parte dei dolciari che lei ha citato prima, riescono a chiudere positivamente di 1-2 punti percentuali, parliamo del 16 rispetto al 15, è una notizia molto positiva. Non c'è ombra di dubbio che il settore complessivamente è un settore che vale 19 miliardi, di cui 14 miliardi realizzati con le produzioni dolciarie e 5 miliardi realizzati con la pasta. Però non c'è ombra di dubbio che la gran parte della spinta di crescita ci venga proprio dall'export. È un settore che ha una vocazione esportativa da sempre, lo ha sempre avuto, lo ha avuto la pasta per tradizione, la colonna della dieta mediterranea, ma lo hanno anche i prodotti dolciari, che trovano un'affermazione importante in molti paesi, prevalentemente dell'Europa ma anche degli Stati Uniti. Allora, voi avete esportato come pasta 2 miliardi di euro l'anno scorso, più 3%, e per quello che riguarda la parte dolciaria più 9% in valore, a 3,6 esatto. miliardi di euro. Le destinazioni principali sono sempre le stesse: Germania, Francia, poi cambia magari il palmarès. Tra pasta e dolce, sì, c'è qualche differenza. Gran Bretagna, Stati Uniti, USA e Giappone, sì. E devo dire nel dolciario anche la Spagna, che da solo insomma coprono il 50% del nostro export nel dolciario, esatto. Il 60% nella pasta. Che cosa potete fare di più, alla luce delle parole di Calenda di oggi, per posizionarvi meglio e aggredire meglio il mercato, penso statunitense, ma non solo, rispetto alla finta pasta italiana, fatta con grani teneri, fatta insomma una schifezza per noi cultori della pasta, anche quando la cucini? Beh, allora, diciamo che si può fare molto, richiamo anche le parole della Presidente Licia Mattioli, cioè bisogna fare squadra. Noi obiettivamente stiamo avendo un grande aiuto dalle istituzioni, non c'è ombra di dubbio. Il Presidente dell'ISCE si sta dando molto da fare, aveva stabilito appunto quel piano del Made in Italy di promozione specifica per gli Stati Uniti d'America, e personalmente condivido molto quello di puntare sul canale della distribuzione. Non dimentichiamo che i prodotti che noi rappresentiamo anche in Italia hanno una diffusione prevalentemente nella distribuzione moderna, e quindi l'80% dei nostri prodotti è venduto, commercializzato lì. Quindi l'idea strategica di puntare a degli accordi di partnership con grandi nomi della distribuzione americana, diciamo, era fondamentale. Certo che la notizia minacciata da Trump di protezionismo e quindi di previsione magari di dazi piuttosto che barriere o ostruzionismi anche di tipo amministrativo, che comunque complicano la vita alle aziende, è un qualche cosa che ci fa guardare con preoccupazione al domani. Allora, dopo il traffico, l'ultima domanda per lei è capire perché, visto che continuiamo a parlare di Made in Italy, del bello e ben fatto, della qualità dei nostri prodotti rispetto all'Italian sounding, a chi mette la bandierina, il Vesuvio o Venezia sullo sfondo e fa finta che il prodotto sia italiano, perché siete stati così critici sull'iniziativa annunciata ieri dal Ministro Martina di andare a una denominazione di origine per pasta e riso, da dove arriva la... materia prima? Una risposta la devo dare invece a chi, vabbè, era il Duca di Mantova, ho detto nel Rigoletto, non Rigoletto, comunque era il Duca di Mantova, ci mancherebbe, questa quella per me è Parison, a chi mi dice: ma le sembra possibile che noi spendiamo soldi pubblici per promuovere i prodotti italiani sugli scaffali della grande distribuzione americana? È certo che mi sembra possibile, dovremmo dare i soldi non a chi li ha già. Guardi che quando, se ogni tanto riusciamo a fare le cose fatte bene, e a fare come fanno i francesi e i tedeschi. Faccio notare che la Germania ha un export dell'agroalimentare più alto del nostro, non mi sembra che sia famosa per quello. Ma ben vengano se i miei soldi sono utilizzati per promuovere i prodotti italiani sugli scaffali americani, a discapito magari dei francesi e dei tedeschi, così la dico tutta, e anche degli italiani finti americani, o dei finti italiani americani, e questo fa aumentare i fatturati delle nostre imprese, mantenere l'occupazione, magari aumentare anche l'occupazione. È così che si fa promozione in un paese. Cosa preferiva? Le sedi Enit e ICE di 10 anni fa, di 15 anni fa, le missioni regionali con mogli, amanti, nipoti al seguito? Traffico. Focus Economia. Di nuovo in diretta, dunque, invece di tante parole idiote come al solito, perché non ne dici una per difendere il riso italiano, ignorante Lecchino? La ringrazio. Troppa grazia, diciamo, mi sembra di aver davvero difeso il riso italiano, ma rispondo anche a chi continua a rompermi le scatole sulla globalizzazione, che a noi quanto a export ha fatto solo che bene in questi casi. Pensate che a me di Obama non ne frega nulla, ho trovato anche un po' provinciale l'accoglienza in questi 2 giorni a Milano, ma chi se ne frega, sono d'accordo con Fiorello, così la chiudiamo. Però attenzione che negli 8 anni di amministrazione Obama, che avrà commesso tanti errori in politica estera e molti dei quali ancora li paghiamo, ma negli 8 anni di amministrazione Obama le nostre esportazioni agroalimentari negli Stati Uniti sono aumentate del 78%, ancora poco, ancora sotto i 4 miliardi, ma cioè noi, se siamo un paese esportatore che vuole aumentare la massa di export perché i nostri prodotti valgono nelle 4 categorie che citavo e anche in altre, ma non dobbiamo essere a favore dei dazi. Comunque, perché siete, diciamo, scettici sull'iniziativa del ministro Martina che assieme a Calenda ha detto: noi scriveremo alla Commissione Europea perché vogliamo spiegare alla Commissione Europea che abbiamo intenzione di introdurre l'indicazione di origine del grano dentro la pasta e dell'origine del riso, dopo che tra l'altro il riso, come ricordavo, dopo che l'Unione Europea ha abbassato e se non quasi annullato i dazi sul riso vietnamita e thailandese, dal Vietnam abbiamo fatto più 346% nel 2016, con il rischio che molti scrivano riso italiano, ma in realtà il riso è vietnamita con minor controllo e quant'altro. Allora, noi diciamo che questo intervento, questa insistenza da parte delle istituzioni di arrivare ad un'imposizione, quindi ad un'etichetta obbligatoria dell'origine della materia prima utilizzata per la pasta, non l'abbiamo capita, abbiamo provato a spiegarla anche al Ministero, nel senso che è un intervento legislativo del tutto inutile. Non è utile per il consumatore perché non aggiunge nulla, anzi probabilmente allontanerà sempre di più il consumatore da una lettura attenta dell'etichetta, e non aiuta l'impresa, la quale sarà obbligata appunto a mettere un tipo di indicazione aggiuntiva in etichetta che peraltro ha una enfatizzazione grafica che normalmente l'Europa riserva solamente a quel tipo di informazioni importanti che si vogliono dare ai consumatori. No, non ho capito, nel senso, io capisco che il riso, da come arriva dal Vietnam, il rischio cioè che un produttore italiano prenda il suo riso vietnamita pagato molto molto meno e me lo spacci per il riso italiano, per il marchio italiano. Sulla pasta c'è un processo in più, perché non basta il grano, c'è un processo di lavorazione. E voi dite, certo, il valore aggiunto dei nostri pastifici lo mette la lavorazione. È così. Ma allora a questo punto cos'è che non vi piace dell'indicazione? Tanto noi sappiamo che il 70% più o meno è il grano italiano, ma il 30% che importiamo è un grano di qualità molto alta, se non ricordo male. Allora, la qualità della pasta non la fa l'origine della materia prima, questo è evidente. Allora, quello che abbiamo provato a spiegare... Beh, c'entra qualcosa anche l'origine della materia prima, no? L'origine della materia prima c'entra, ma c'è una falsa credenza per cui la materia prima realizzata in Italia possa essere di qualità superiore a quella importata dall'estero. Poiché questo non è così, e poiché normalmente la pasta, il grano che si importa dall'estero ha un costo che arriva a essere il 15% superiore a quello acquistato in Italia, è evidente che se noi avessimo disponibilità produttività, come lei ricordava, siamo deficitari per circa il 30% di grano da un punto di vista quantitativo. Se aggiungiamo anche la povertà, spesso dipendente dal clima, comunque della qualità del grano, per cui non raggiunge quel livello ottimale di proteine vegetali che debbono essere per legge garantite, vale a dire noi abbiamo un minimo per legge di 10,5% di proteine vegetali, allora è evidente che le nostre aziende trovano la necessità, oltre per i motivi di quantità che dicevo, ma anche di qualità, di miscelare i grani per far sì che si possa garantire al consumatore una pasta che abbia un indice proteico molto elevato, che è quello, poi parliamoci chiaro, il glutine, che dà la consistenza e la qualità per il consumatore. Ma i grani stranieri sono anche migliori, l'abbiamo spiegato molte volte, non c'è niente di male. Ma allora, se però quello che fa la qualità della pasta è la lavorazione italiana, cioè, mentre sul riso tu rischi di fare un falso, diciamo, perché prendi quel riso e lo spacci per riso italiano, in quel caso, voglio dire, voi non dovreste essere col cuore tranquillo, nel senso che se io so che quello che fa la differenza non è il grano, se è 100% italiano o no, ma è la qualità di questo grano e la lavorazione che fate, dovreste essere al sicuro. Allora, non siamo sì con cuore tranquillo. No, non siamo con cuore tranquillo, perché è stata venduta come un'iniziativa che serve a dare trasparenza al consumo, ai consumatori. In realtà è un qualche cosa che non aiuterà né i consumatori né i produttori di pasta. Allora, ho capito anche la sua posizione. Grazie a chi rappresenta i produttori di pasta, di dolciari e industria dolciaria in questo paese, Mario Piccialuti. Andiamo adesso su GR24, poi la borsa che ha chiuso con un rialzo dello 0,27%, molto bene due titoli in trimestrale oggi, Banca Generali e Campari. 349-238-6666 per sms. Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali. Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio 24 è in Digital Radio. State ascoltando un programma offerto da Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta qui da Tutto Food a Milano. Ne abbiamo approfittato anche noi durante la pausa, ma adesso torniamo in diretta, no, perché è il tempio non del vegano, ma diciamo, siamo nella zona salumi, formaggi, insaccati, cioè è difficile. Forse solo il Vinitaly rappresenta una sfida più alta. Allora andiamo alla borsa invece, che oggi vede premiare due titoli su tutti che hanno dato risultati trimestrali oggettivamente molto buoni. Partiamo da Campari, più 4,43% a 5,53 euro. Ragionamento analogo anche per Banca Generali, più 4,32%. Campari sostanzialmente vede salire i ricavi nel trimestre a 376,6 milioni, l'utile sale del 56,7%. Questo solo nel primo trimestre. Ha contribuito molto Gran Marnier, rilevata nel 2016 per 32 milioni e mezzo sulle vendite, 10 milioni sul MOL rettificato. Questo per quello che riguarda il titolo Campari. Bene anche Banca Generali, che oggi in trimestrale ha approvato una trimestrale in cui sostanzialmente se riuscissi, eccola qua, più 91% l'utile del trimestre a sopra i 52 milioni di euro, più 4,32% il titolo. Ferrari bene, più 3,65%, Hughes Santa Portesi riprende, più 2,5%, Recordati più 2, Azimut più 1,70% come Italgas, Brembo più 1,5% come Ferragamo, Luxottica più 1,40%. Segnalo che c'erano i conti anche di Rizzoli Corriere della Sera, che nei primi tre mesi dell'anno ha registrato una perdita di 5,7 milioni contro un rosso di 22 milioni nei primi tre mesi del 2016, quindi in netto miglioramento la perdita. I ricavi scendono a 213 milioni, ma il margine operativo lordo torna positivo per 12 milioni. indebitamento stabile. Invece in calo anche oggi il TOZ, la delusione del mercato per i conti di TOZ, le vendite e il fatto che con ogni probabilità forse non si riuscirà a mantenere l'obiettivo per l'anno. Ieri, ricordo, hanno penalizzato molto il titolo. E per quello che riguarda invece altri settori, altri titoli legati al settore, no, non c'è stato, lo dico chi mi scrive, un effetto come ieri su tutto il settore del lusso. Certo, per esempio, un titolo, ci sono titoli ancora deboli nel fronte moda, ma appunto citavamo il caso di Yoox Net-a-Porter, che ha recuperato, Luxottica recupera l'1,40%, Moncler l'1%. Il peggior titolo Banco BPM meno 5%, poi UbiBank meno 2%. Devo dire che oggi anche Terna ha diffuso i conti sui primi trimestri, l'utile più 10%, ricavi a 523 milioni. Ferraris si detto orgoglioso dell'incarico che ha ricevuto. Terna guadagna lo 0,60%. Migliori e peggiori in assoluto, dicevo, MC Link più 22, Club più 18, Safeback più 15, Dada più 15, Invest più 15. Pronto opposto, Banco BPM, appunto, Teresia meno 3,90, Visibile Editore meno 3,80, Sintesi meno 2,90, Gefran meno 2,75%. E allora, ultimo tema. Tra l'altro è appena uscita una notizia dall'agenzia del Ministero dell'Economia e Finanze. Allora, i lavoratori autonomi che stando ai dati del Ministero delle Finanze sugli studi di settore guadagnano meno in assoluto sono i pescatori, ma anche i titolari di macellerie e di centri estetici, i produttori di ceramica e terracotta. Nel caso dei pescatori si arriva anche e delle cure termali, si arriva a meno di 5.000 euro l'anno. Fronte opposto invece i notai, che hanno 244.000 euro di reddito medio anno, le farmacie 116.000, hanno una lunga fetta di professionisti, commercialisti e consulenti finanziari. Ma non è di questo che vorrei parlare nell'ultima parte del programma, vorrei parlare di Bruxelles-Parigi, anzi Parigi-Bruxelles-Berlino, con Roma che sta un po' fuori in questo momento. Valls, l'ex premier francese Manuel Valls, ha detto oggi, dopo aver annunciato che vuole iscriversi anche lui al partito di Macron e a Marche, però hanno detto il partito, hanno detto adesso vedremo, ha detto il Partito Socialista è morto, non i suoi valori né la sua storia, ma ormai è il passato. Anch'io mi voglio candidare nella maggioranza presidenziale per le legislative di giugno, e quindi abbandona anche i socialisti, anche Valls. Ma qui devo prima di tutto attendermi e chiedere le scuse, il mea culpa, la biura di un uccellaccio che era convinto che questa volta avrebbe vinto la Le Pen. Allora, professor Giulio Sapelli, docente di storia dell'economia della città di Milano, buonasera. Buonasera, caro, ma guardi che non devo fare nessuna biura. Aspetta, un attimo, le biure dai tempi di Galileo si fanno in maniera anche formale. Ma non la devo fare. E vorrei fare che assistesse la tua biura, anche la sua biura, anche sì. Adriana, la mitica. Adriana Celletele, che invece indovina sempre le elezioni, lo so. Ma neanche io li sbaglio sempre, non è vero. Non è ancora l'ora dell'aperitivo, aspettate ancora 20 minuti, vorrei concludere la diretta. Allora, grazie anche a Adriana Celletele, giornalista delle 24 ore da Bruxelles. Sapelli, seriamente, lei aveva scommesso che avrebbe vinto, aveva detto secondo me vincerà Le Pen, adesso torna a essere serio. E comunque tira un sospiro di sollievo, per quanto lei avesse detto che Macron ha un partito che è un partito nato in 6 mesi, ma insomma c'è uno scampato pericolo per l'Europa, e poi veniamo invece ai pericoli non scampati. No, dunque, c'è differenza tra Europa e Unione Europea. C'è uno scampato pericolo per la politica, per la cultura, perché non ha vinto un partito di destra, antisemita, islamofobo e razzista. Questa è la cosa che l'Europa come civiltà, come incrocio di cose, ha scampato. Che poi Macron, come ho sentito dire, rafforzi l'Europa, questa è un'assoluta sciocchezza, perché innanzitutto, come lei avrà visto, erano, quindi io ho sbagliato le previsioni per tanti motivi, ho sottovalutato che in Francia c'è un collegio nazionale, ho sottovalutato che anche se votano per la Le Pen l'80% degli operai, i giovani non avrebbero votato, e soprattutto che gli operai sono ormai una classe isolata e ghettizzata, quindi la Le Pen non ha, per nostra fortuna, trascinato con sé buona parte della classe media di Stato. E poi ho sottovalutato l'imponente forza dello Stato francese, perché queste elezioni l'ha vinto lo Stato. Lo Stato che, dato che lì il rapporto tra magistratura e politica è come quello che avevamo noi tanti anni fa, lo Stato che ha fatto fuori Fillon con quell'inchiesta, lo Stato che ha occultato ogni polemica sul vincitore, insomma, e quindi poi dopo il fatto che la lealtà repubblicana, la Repubblica, quei valori formidabili incarnati dalla Marsigliese funzionano ancora. Non mi illuderei però che per esempio il Partito Socialista sia finito. Nel 64, come sapete bene, la SFIO aveva preso il 6%, 10 anni dopo Mitterrand vincerà col 44%, quindi questa cosa che il Partito Socialista è morto sono tutte stupidaggini. Il problema allora, però, vero, vediamo se riesco a cambiare la domanda. Ha vinto, cambia la domanda. Allora, ha vinto l'Europa o la ha vinto in Europa, ma non l'europeismo. O ha vinto la Germania. Ma certo che ha vinto la Germania, scusa, ma chi è andato a Berlino stamattina? È andato Hollande e mica è andato Macron? È andato Hollande, un pesce morto. Adesso se tutti e due vogliono vincere le elezioni, Macron non deve andare dalla Merkel. E la Merkel deve continuare a dire che i francesi devono fare i conti. Infatti chi ha parlato oggi? Ha parlato, voglio dire, il rappresentante del potere teutonico ordoliberista, il presidente Juncker, che è tenuto come un caiolino perché deve dire quello che deve dire, che sennò viene fuori il suo passato di 15 anni di presidente del Lussemburgo, no? Non fatemi dire anni che cosa ha detto alla Francia, dovete fare i conti, dovete fare. Quindi non è cambiato niente. Quindi allora, l'Europa è ancora divisa dal fatto che non è né una federazione né una confederazione, è vittima del cosiddetto funzionalismo. Ma Adriano, non si possono fare queste discussioni così serie con così poco tempo. Vabbè, adesso non è che volessi affrontare tutto il tema. Allora ho il traffico, poi vorrei chiedere a Adriana Ceretelli se è d'accordo sull'idea che questa vittoria di Macron vada, come temono alcuni, diciamo, a rafforzare ancora di più la gestione tedesca dell'Europa, o invece, come altri sperano, no, Macron sarà sensibile anche ad alcuni temi, diciamo, delle ultime settimane e mesi, in particolare alle richieste che arrivano dai paesi del sud Europa, tra cui la Francia stessa aveva firmato un documento assieme a Italia, Spagna e Portogallo. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Dopo il traffico la risposta. Focus Economia. Di nuovo in diretta, allora rigiro la domanda alla mitica. Si è rafforzato, cioè, la Merkel, quindi il dominio tedesco, lo dico male, insomma la gestione tedesca di questa Unione Europea, di questa area euro, o invece ha ragione chi ancora spera che quella specie di tentativo di unione tra Francia, Italia, Spagna e Portogallo per anche un nuovo calcolo del deficit possa fare presa con Macron? Adriana. Io penso che in questo momento sia impossibile dirlo. Molto dipenderà dal fatto che Macron riesca o non riesca in giugno ad avere una solida maggioranza parlamentare. Se ce l'avrà, si potrà cominciare a ragionare e a porsi questa domanda. Se non ce l'avrà, sarà una presidenza zoppa e quindi la Francia non uscirà dalla crisi in cui si dibatte da anni. Dopodiché, una volta ottenuta la maggioranza, dovrà fare le riforme che non ha mai fatto, dovrà rispettare i criteri di Maastricht sul deficit, dovrà fare la riforma del lavoro e altre riforme. Bisognerà vedere se metà della Francia, che continua a non essere con lui, diciamo, accetterà questo tipo di riforme, di svolta, oppure se le piazze torneranno in piazza. e quindi questo sarà essenziale per misurare la credibilità della politica di Macron e la forza di una sua volontà di riforma dell'Europa rispetto alla Germania. Se si presenterà un Macron riformista di successo e quindi in linea con le regole dei trattati vigenti, allora quel Macron potrà sicuramente essere un interlocutore che afferma il suo punto di vista di fronte alla Germania. Oggi sulla riforma dell'Eurozona non concordano Francia e Germania e le proposte di Macron non sono affatto in linea con quelle tedesche, per esempio sull'idea di creare un bilancio europeo dell'Eurozona oppure un ministro del tesoro. Per ora la Germania non ci sta. La Germania però ha bisogno di ricostituire l'asse con la Francia, perché se no non si riesce a uscire dalla crisi europea. Quindi diciamo che la Germania sarà disposta a fare delle concessioni, chiunque vinca, Merkel o Schulz, poco importa, perché entrambi sono europeisti. Però diciamo che il primo passo dovrà venire dalla Francia, soltanto così diciamo si potrà procedere alla riforma dell'Eurozona. E in ogni caso bisogna anche calcolare che tra le elezioni tedesche di settembre e quelle italiane probabilmente di marzo, per marzo prossimo, c'è ancora un anno circa prima di capire quale sarà la linea. Però insomma ci sono ancora troppe incognite per poter fare previsioni. Adriana, in una battuta, ma non è che aver avuto come avversaria fin dall'inizio la Le Pen abbia permesso, tra virgolette, a Macron di non affrontare i temi più nel dettaglio, quelli che si sarebbero chiamati temi programmatici? Sì, abbiamo letto e detto anche noi delle sue politiche economiche, però tale era l'avversario, c'era da salvare il futuro della Francia in Europa, il futuro della Francia democratica, della Marianne, insomma, della patria, della legalità, dell'eguaglianza, della libertà, che a me è sembrato quasi che temi molto, quali riforme fai, in che tempi li fai, ho capito la loro tassa sull'abitazione e quant'altro, ma sono un po' passati in secondo piano? Assolutamente sì, assolutamente sì. La fortuna di Macron e la sua elezione è dovuta esattamente al fatto che la Francia, più che votare pro Macron, ha votato contro Le Pen, e di questo Macron si rende perfettamente conto, e di questo Macron si renderà ancora più conto se avrà una maggioranza e se inizierà ad attuare le riforme che dovrà fare. E quindi è proprio lì che si misurerà, diciamo, la forza del nuovo presidente, le sue promesse, la svolta che potrà portare in Europa. Ci sono ancora troppi test da superare per poter, diciamo, dire ok, la Francia torna ad essere la Francia protagonista insieme alla Germania. Insieme alla Germania. Sapelli, d'accordo su questo, perché noi abbiamo visto con tantissime differenze del caso, qualcuno mi scrive come Renzi, no, un po' diversa la storia, Renzi un partito ce l'ha e ce l'aveva dietro, Macron l'ha creato in 6 mesi, però è vero, visto che Renzi e Macron si parlano da tempo, che anche Renzi, quando prese il 40% degli europei, insomma fu un'investitura forte contro, diciamo, il vecchio in primis, non solo, poi arrivarono i problemi. Allora, al di là, diciamo, dei parallelismi più o meno impropri, non è che la debolezza di Macron sia proprio nel fatto che vinceva sull'idea, su un'altra idea, e quasi di ideologia di paese, e ha potuto non fare i compiti a casa, nel senso di mettere giù per iscritto qual è il programma vero e proprio? No, ma scusi, ha ragione la Cerretelli, ma fino in fondo. Lei questo ragionamento lo collega giustamente alle elezioni, chi vince e chi perde, ma i francesi non hanno mai rispettato i trattati. E io dico per fortuna, perché sennò l'economia francese andrebbe molto peggio. La fortuna della Francia è che se ne sono stropicciati dall'Europa, perché se applicavano le politiche, quella che anche la dottoressa Cerretelli chiama riforme, sono contro riforme secondo me. Perché la Francia sta su, che è un'economia, come l'hanno descritta bene alcuni economisti, anche liberali, per carità, Bédarès ad esempio, è una Francia che vive grazie al colbertismo che c'è ancora a lei, cioè alla spesa pubblica, alle grandi stakeholder. Voglio dire, è naturalmente questo Stato che ha creato Macron, e questa Francia non è un'altra Francia. È questo che mi sembra, che mi fa, devo dire, che invece i giornali stranieri, se lei leggeva El País, che diceva accidenti che razza di Stato hanno i francesi, non come noi in Spagna. Voglio dire, perché? Perché hanno uno Stato, un'organizzazione nazionale che ha creato un partito En Marche, io sono, leggevo tutti i giorni En Marche, si parlava di tutto meno che della politica europea. È vero, ha suonato l'inno di Schiller, l'inno europeo, ma chiunque ha un po' di cultura sa che quell'inno lì non è l'inno di Europa, e sa chi è Schiller. E se lo suoni assieme a una piramide, sai che cosa invochi? Cos'è la massoneria? È la massoneria, sapendo. Dico solo, no, basta dire. Scusi, se lei va sul sito della Gran Loggia di Francia. Mancava il compasso, però. No, ma non ce n'è bisogno, amico mio. In Francia è una città libera, la Francia. I miei massoni sfidano il 1° maggio a viso aperto, quindi non c'è nulla della cosa brutta che c'è in Italia. La Francia è decisa con Macron a non cedere davanti al ricatto tedesco e quindi si apre un periodo di grande confronto. Quindi tutte queste favoline sono tutte favole. Infatti, se si va a sentire quello che lui ha detto, soprattutto nell'ultimo grande discorso, ha fatto un discorso straordinario, straordinario. Okay. Ecco, è tutto un discorso di rivendicazione punto per punto. Allora, quindi è stato un grande francese, e se devo paragonarlo a qualcuno, sì, in mente aveva De Gaulle, che quindi è tutto diverso dalla signora Merkel e dagli altri, guardi, proprio. Vabbè, tutto diverso. Quindi, io, per sintetizzare, mentre Diana Cerretari ritiene che fino a che non si avranno elezioni tedesche, un programma vero e proprio, e la partita non sarà completamente chiusa, e adesso dovrà riempire i contenuti, lei invece, Sapelli, mi sembra più orientata a dire attenzione che il blocco elettorale, si sarebbe chiamato una volta, che appoggia e ha appoggiato Macron, è un blocco che vuole, diciamo, mettersi a confronto e non essere succube della Germania. Devo dare una notizia in diretta prima di chiudere, che farà molto discutere, perché nel libro che uscirà domani, se non ricordo male, dell'ex direttore del Corriere della Sera e del Sole 24 Ore Ferruccio De Bortoli, Poteri Forti Quasi, c'è un passaggio che stanno battendo le agenzie. L'allora ministro, scrive De Bortoli, l'allora ministro delle riforme Marilena Boschi nel 2015 non ebbe problemi a rivolgersi direttamente all'amministratore delegato di Unicredit Federico Ghizzoni per chiedergli di valutare una possibile acquisizione di Banca Etruria. La domanda era inusuale da parte di un membro del governo all'amministratore delegato di una banca quotata. Ghizzoni comunque incaricò un suo collaboratore di fare le opportune valutazioni patrimoniali, poi decise di lasciar perdere. Scrive De Bortoli relativamente alla richiesta da parte del ministro Boschi, allora ministro Boschi, a Unicredit di comprare Banca Etruria. Vabbè, aspettiamo smentite, correzioni e quant'altro. Intanto ringrazio Adriana Cerretelli in collegamento da Bruxelles, Giulio Sapelli che insegna storia economica all'Università di Milano, e vi auguro buona serata a Focus Economia, torna domani dalle 17 in poi. Radio 24, libera la voglia di fare.